24 mattino. Simone, per me non è cambiato nulla, io sono un imprenditore agricolo e ho sempre lavorato senza mai fermarmi un attimo, dal lunedì alla domenica, compresi 25 aprile e 1 maggio, però adesso sinceramente mi sono veramente stufato di tornare ad essere costretto a stare a casa, a non poter portare i ragazzini a fare una passeggiata a mare, a fare una passeggiata nel bosco. Buongiorno, io ho sempre lavorato, anzi è aumentato il lavoro. Bene questa riapertura per la gente che aveva difficoltà, l'unica cosa che mi dispiace è che si può andare al parco, si può andare qua, si può andare là, ma trovare un amico no, la fidanzata sì. Perché il governo non è riuscito ad obbligare tutte le banche, tutte, ad aderire alla concessione della valutazione dei 25.000 euro? Allora, su quest'ultimo fronte io conto nei prossimi giorni che torneremo a parlare con qualcuno dal sistema bancario anche per avere chiarimenti su tutto questo e a parlare con i ministri economici per farci spiegare esattamente come stanno andando le cose su questo fronte, mentre si prepara il famoso decreto aprile che poi verrà approvato in maggio. Un abbraccio al nostro imprenditore agricolo che non si è mai fermato, così come a tutti gli ascoltatori che hanno continuato a lavorare e a quelli che ricominciano oggi. Eccoci, le 7, 17 minuti e 42 secondi, la seconda parte dei 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, la prima della fase 2. Prima rassegna stampa della fase 2, o la fase 1 e mezzo, o la fase boh, come qualcuno l'ha chiamata, ancora con questo dubbio, diciamo così, questa questione dei congiunti e degli affetti stabili, un po' a dominare la scena, quantomeno della discussione, ma possiamo fare tutte le battute che vogliamo, però... Insomma, la sostanza è che dovremmo continuare a comportarci il più possibile come prima, cioè con qualche libertà in più, meno possibilità di ricevere multe, però il più possibile come prima. Il tutto in un delirio normativo che viene ben raccontato oggi, per esempio, da Sergio Rizzo su Repubblica, che parla di 160 provvedimenti normativi nel giro di 30 giorni, tra norme vere e proprie, circolari esplicative e continue oscillazioni. Pensate solo al fatto che fino a ieri mattina si pensava che in Lombardia i runner avrebbero dovuto indossare la mascherina. Oggi, ieri sera, è stato chiarito che no, non devono indossare la mascherina, solo prima e dopo possono correre senza mascherina, anche perché qualcuno ha avvisato, gli ha detto: guardate che uno che va a correre con la mascherina rischia, perché non respira, insomma. Quindi, come capite, ogni giorno ce n'è una, ogni regione ne ha una, ogni comune ne ha una, e quindi, insomma, entriamo in questa fase 2 in maniera diseguale. Dunque, la parte dedicata alla rassegna stampa è sempre il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. Ci fa piacere sentire nella seconda parte della trasmissione alle 8.20, nella terza parte, scusate, con Maria Latella. Avremo ospiti prima Sandra Zampa, la sottosegretaria alla salute, per capire come si articola e se c'è un'articolazione di una fase 2 sanitaria, quindi test sierologici che dovrebbero partire oggi, più tamponi, meno tamponi, la famosa app Immuni che, insomma, è un mese che ne parliamo e poi partirà da metà maggio, forse, chissà come, non si sa esattamente. E poi la ministra del lavoro Catalfo, per parlare anche di cassa integrazione, di aiuti ai lavoratori, di cosa si aspetta, di cosa ci si aspetta per i prossimi giorni, le prossime settimane. I titoli intanto: l'Italia alla prova è quello del Messaggero, l'ora della responsabilità è quello del Corriere della Sera, italiani uscite ma usate la testa è l'appello del Quotidiano Nazionale, La Stampa intervista la ministra Lamorgese, ecco le regole per ripartire, e anche qua un appello alla responsabilità. La Repubblica invece intervista Walter Ricciardi, Se il virus torna, chiudiamo. Riaprono anche le tasse, il titolo del giornale. Nord-Sud, esodo da paura, è quello del Fatto Quotidiano, su le persone che si stanno registrando per tornare nelle loro case nel mezzogiorno dal nord. Il virus a giugno sarà morto, titola Libero. A parlare Matteo Bassetti, direttore delle malattie infettive a Genova. Per ora il più fuori è Conte, titola La Verità. L'Italia riapre, ma le famiglie ora fermano mutui e prestiti, scrive il Sole 24 Ore. E poi la questione dei rifiuti, Tari sospesa in 3 città su 4, ma è caos sugli sconti. E infine la Gazzetta dello Sport. L'Italia riapre, sport alla fase 2 calcio compreso, rieccoli, perché c'è il via libera agli allenamenti individuali. La fase 1 e mezzo, mi scrive un ascoltatore, te la spiego così. Dopo 9 settimane a casa in tuta, stamattina ho faticato ad allacciare i pantaloni. Amico mio, ti capisco perfettamente. Perfettamente. Ieri la disperazione sul display digitale della mia bilancia, la disperazione. Come ne è tutta la fatica fatta prima dell'isolamento dispersa in 1 mese e mezzo. Va bene. Anche i vostri chili, se volete, al 349-238-6666. Eccoci qua. Dunque, iniziamo come sempre da qualche storia laterale, qualche cosa di un po' diverso, a partire da membri delle istituzioni che ci dimostrano un discreto grado di irresponsabilità. Da Roma a Ventimiglia. E iniziamo dal Fatto Quotidiano, a pagina 5, è il capo di gabinetto della Regione Lazio. Le normative le scrivo io. Tu non sai chi sono io, la classica, un classico, il tu non sai chi sono io. Lo racconta Vincenzo Bisbiglia, a pagina 5 appunto del Fatto Quotidiano, si parla del 1 maggio. Albino Ruberti, capo di gabinetto di Nicola Zingaretti alla Regione Lazio, avrebbe pronunciato così, avrebbe detto questa frase, insomma, tu non sai chi sono io, le norme le scrivo io. Il 1 maggio, all'indirizzo di alcuni poliziotti del commissariato di Porta Maggiore, che avevano contestato a lui e alla consigliera regionale del PD, Sara Battisti, il mancato rispetto dei decreti sul distanziamento sociale. In sostanza, cosa è successo? Che Ruberti e Battisti erano a pranzo a casa di Andrea Pacella, consigliere politico della ministra dei trasporti Paola De Michelis e del suo compagno, nel quartiere Pigneto di Roma. Per loro è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro a testa. Era un incontro di lavoro, assicura Ruberti, interpellato dal Fatto Quotidiano, dovuto al fatto che la mattina il Ministero aveva richiesto il supporto della Protezione Civile regionale sul fronte dei trasporti e dunque avevamo la necessità di scambiarci valutazioni. Nel verbale consegnato a Ruberti, gli agenti affermavano che si trovava in un'abitazione di un amico a consumare il pranzo. E in effetti il pranzo c'è stato. All'atere delle questioni lavorative, infatti, i quattro gli sono concessi 5 menù di pesce da 40 euro l'uno, consegnato in delivery. Scattata anche una chiacchiera, ci può essere la battuta, la risata, un po' di musica, conferma Ruberti. I vicini, infastiditi e occhiuti, telefonano alla polizia e si scatena il tutto con Ruberti che scende giù, dice: io non ho detto tu non sai chi sono io, gli ho solo voluto spiegare che era un incontro di lavoro e qual era il mio ruolo, gli ho dato del tu perché li ho visti giovani, poi mi sono subito corretto. In sostanza, alla fine arriva un commissario e nel racconto dei poliziotti, Sara Battisti, la consigliera del PD residente a Fiuggi, ma domiciliata a Roma dall'inizio della pandemia, dice: sono un consigliere regionale, fatemi il verbale, mentre con forza sbatteva il documento sulla macchina della polizia. Battisti non ha risposto alle telefonate del Fatto Quotidiano. Dunque, un pranzo di lavoro o di amicizia, chissà che finisce con una multa. Così come finisce con una multa l'imbarazzante esibizione del sindaco di Ventimiglia. E qua non è che ci sono versioni discordanti, perché c'è anche un video il primo ballerino, sempre il Fatto Quotidiano, pagina 22. Eccolo che ancheggia, racconta Marco Franchi, batte le mani, si lancia in balli sfrenati, peccato che siamo in piena quarantena. E lui sia Gaetano Scullino, che al di fuori delle piste da ballo è anche il primo cittadino di Ventimiglia. Ho fatto una cavolata, alla fine lo ha ammesso anche lui. Poi ha aperto il portafogli e ha pagato la multa da 280 euro che i carabinieri gli avevano rifilato. La colpa: aveva trasgredito le ordinanze per uscire su un terrazzo dove andava in scena una festa con balli e karaoke. Del resto sarebbe stato difficile al sindaco negare. Eccolo su Facebook che balla, salta, tra l'altro, guardate ragazzi, cantando Mamma Maria dei ricchi e poveri, no, guarda proprio veramente, cioè anche cioè, diciamo, alla violazione delle norme sommiamo, ecco, un gusto musicale quantomeno discutibile. Poi batte le mani rivolto alla sua Ventimiglia di notte buia per la quarantena. Indossa mascherina, guanti, un doppio petto grigio. E insomma, lo stile del primo ballerino a dir il vero non è proprio degno di Tony Maneno, ma si fa quel che si può, ce la mette tutta, agita le mani al cielo, sorride alla telecamera, ma sceso dalla terrazza si accorge di averla fatta grossa. I carabinieri gli hanno appioppato una contravvenzione ed eccoli qua un po' di uomini delle istituzioni. Abbiamo il delirio delle ordinanze, ormai lo sapete, in alcune regioni in un modo, in altre regioni in un altro, per fortuna non c'è mobilità tra regione e regione e quindi sono poche le persone che devono stare attente a come si comportano in una regione e come si comportano in un'altra. E però vi ricordate che un po', insomma, ci avevamo sorriso, avevamo un po' ironizzato sulla ordinanza della regione Toscana, quella che indicava una distanza di 1,8 metri tra persona e persona. Ebbene, il titolo del quotidiano nazionale ci porta su questa guerra per 80 centimetri. 80 centimetri di salute, scrive Ilaria Ulivelli a pagina 4, e di guerra politica. La distanza antivirus minima da mantenere tra le persone è fissata a 1 metro. Quella non più obbligatoria, ma consigliata dalla regione, 1,80 metri. Non è una resa quella del governatore toscano Enrico Rossi. Lui resta convinto che per tutelare la salute propria e degli altri sia meglio mantenere una distanza di almeno 1,80 metri. Ma di fatto si trova costretto a fare retromarcia e firmare un'ordinanza, la numero 48, attenzione anche qua, e abbiamo la misura di quante norme sono state fatte, quante si accavallano in questa crisi, che sostituisce a nulla la precedente, la 38, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Prendo atto che il governo ha stabilito cose diverse, non voglio penalizzare né le imprese né i cittadini della Toscana su una scelta che si riferisce al territorio nazionale, resto tuttavia della mia convinzione e ribadisco l'invito a mantenere un distanziamento di almeno 1,8 metri. All'ombra di tutto questo si è svolto uno scontro tra lo stesso Rossi e l'Associazione Nazionale dei Comuni regionale, quella della Toscana, guidata tra l'altro dal sindaco di Prato Matteo Biffoni, e poi la questione dei guanti. Il sindaco di Firenze Nardella ha fatto lui un'ordinanza nella quale si prevede l'obbligo di indossarli sui mezzi pubblici, però è un obbligo che vale solo a Firenze, perché nell'ordinanza della regione l'uso è solamente consigliato. Quindi se oggi dovete andare, se siete toscani e dovete andare al lavoro a Firenze, sappiate che è consigliato l'uso dei guanti, e però se entrate a Firenze l'uso dei guanti è obbligatorio sul mezzo pubblico, e quindi portateveli perché sappiate che è obbligatorio, e quindi evidentemente immagino sarete anche passibili di multa. E però insomma c'è tutto questo tema della distanza di 80 centimetri in più, 80 centimetri in meno. Prima di andare alla pausa, un altro fronte, diciamo che più o meno lo stesso fronte, è quello sul quale ci porta Sergio Rizzo sul quotidiano La Repubblica, a pagina 17. Ed è la grande questione italiana, la tendenza a normare tutto. Guardate che questa vicenda dei congiunti, affetti stabili, chi sono, chi non sono, è una tipica rappresentazione di come l'Italia si comporta non solo in una situazione di crisi, ma in una situazione di normalità. Gli imprenditori, i cittadini, tutti quelli che hanno a che fare con la pubblica amministrazione lo sanno. Generalmente è un delirio di norme nelle quali è difficile orientarsi. Pensate, lo sanno anche i magistrati, gli avvocati, lo sanno tutti quanti, insomma. E quindi noi ci ritroviamo, ci racconta Sergio Rizzo, con 100 giorni e 160 decreti. Oddio, poi non sono proprio tutti decreti, però sentite qua, Il dolore più straziante per chi sopravvive a una persona cara, racconta Rizzo a pagina 17, è dover rinunciare all'estremo saluto. Questo fino a quando il governo ha deciso di consentire nuovamente i funerali. Massimo 15 persone hanno stabilito, e con tutte le precauzioni, giustissimo. Peccato che il funerale non sia previsto come valido motivo per varcare i confini regionali. Dunque, per essere in regola con la lettera del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che vieta i trasferimenti da regione a regione, chi vive a Torino e ha perso il fratello a Genova dovrebbe fare un'istanza al prefetto perché la sua partecipazione alle esequie sia riconosciuta come circostanza di assoluta urgenza, prevista dall'apposito quarto modulo di autocertificazione. Però forse qua Rizzo sbaglia, se non vado errato è il quinto. In alternativa si può sempre rischiare la multa da 400 euro. Al 30 aprile si contavano 160 provvedimenti e senza la fittissima e contraddittoria normativa regionale. Decreti, circolari, ordinanze, note, comunicati al ritmo medio di 1,6 provvedimenti al giorno, una decina di decreti legge, 39 circolari più 19 ordinanze del Ministero della Salute, 13 decreti del Presidente del Consiglio, 35 ordinanze della Protezione Civile e poi delibere, lettere e protocolli. Una regolamentazione asfissiante che spesso non ha dato alcuna certezza ai cittadini. E questo è un tema che sicuramente andrà affrontato. Poi alcune di queste norme ovviamente non confliggono, attengono ad ambiti diversi, questo è evidente. Però, insomma, è una questione che andrà affrontata, soprattutto in una fase nella quale, insomma, si chiede, e sempre dalle colonne del quotidiano La Repubblica lo aveva fatto ieri Ferdinando Giuliano in un editoriale, insomma, in una fase nella quale si chiede, per la fase 3, quella che verrà dopo la fase 2, uno stop alla burocrazia che è il grande ostacolo. Molto rapidamente, la questione dei test sierologici è apertissima perché ci racconta per esempio il Messaggero a pagina 13 che c'è una falla nella gestione dei dati perché i famosi test sierologici, quelli che dovrebbero dirti che, insomma, se hai gli anticorpi da coronavirus, quindi potrebbero darti con una discreta approssimazione l'idea se sei entrato in contatto con il virus oppure no, insomma, sono un casino, perché ci sono quelli da 35 a 50 euro e ci sono quelli da 2 euro. Quelli da 2 euro sono un po' più incerti di quelli da 35-50 euro. Ma soprattutto, se io vado a fare un test sierologico in un laboratorio privato, cosa che è possibile, la ASL non riceve i miei dati e quindi sta alla mia coscienza eventualmente chiamare il mio medico di base, dirglielo, e sta alla sua coscienza trasmettere i dati all'ASL. Come capite, la situazione è piuttosto complessa in una giornata nella quale ne dovrebbero partire 150.000 in tutta Italia su base statistica, su un campione statistico deciso dall'Istat. Una pausa. Mi trovo sulla Pontina direzione Roma e devo dire che la ripartenza c'è stata, in base a quello che vedo sembra veramente molto moderata. Volendo considerare la Pontina un buon indicatore di afflusso verso il lavoro, diciamo che è una falsa partenza oggi. La mia preoccupazione è che stiamo creando un nuovo grosso debito che, come quello precedente, sarà pagato esclusivamente da quelli che pagano le tasse. Quindi va bene, vogliamo sebbene, sosteniamo tutti, ma bisogna avere l'impegno che quando si ripartirà tutte le persone paghino le tasse che devono essere pagate. Allora, sul fatto di pagare, se a un certo punto bisognerà pagare, non penso che le persone in questo momento abbiano questo in testa e nemmeno le aziende. Sulla questione del debito, sa, è stato lo stesso Mario Draghi a dire che in questo momento i governi non devono avere paura da questo lato. La Pontina come termometro della ripartenza non è male, non è male. Caro Paolo Mieli, buongiorno, bentornato. Eccoci qua. Certo, però quell'ascoltatore diceva anche un'altra cosa. Sì. Diceva che quelli che pagano le tasse, per carità, si sforzeranno, però può trasformarsi questa occasione in una grande pacchia per gli evasori fiscali. sì, studiano misure ad hoc, gli evasori fiscali non pagheranno quel prezzo in più e potranno anche guadagnarci. Attenzione, sì, perché il tema dell'evasione fiscale è un tema fondamentale per la storia e per il presente del nostro paese. Ovviamente, e resta in piedi, resta tutto in piedi naturalmente, questa, cioè questa crisi per così dire non lo cambia, non lo cambia. Ascolta, io inizierei oggi proprio dalle questioni economiche, ti direi che possiamo partire dal Sole 24 Ore, dove si fa... si dà una nota nel Sole 24 Ore del lunedì, che lo ricordiamo, numero settimanale, con si nota che l'Italia riapre, ma le famiglie fermano mutui e prestiti. Solo a marzo sono stati attivati 162.000 stop alle rate, le richieste sono oltre 600.000, sono dei pezzi all'interno che ci danno un po' una foto di questa realtà. Sì, beh, oggi il Sole è avvantaggiato perché che fosse il giorno della riapertura, lo sapevano tutti, e quindi ha potuto preconfezionare un numero molto molto buono, e ci sono molti articoli interessanti, mutui e prestiti, tempo di stop alle rate, quello che tu hai appena letto, un articolo di Michela Finizio, ma ci sono, ti dicevo, delle curiosità, fra quali mi ha colpito un articolo di Giovanni Trovati, Regioni, al sud l'80% degli aiuti anticrisi. Dai governi territoriali arrivano interventi per 2,7 miliardi, di cui 2,1 nel mezzogiorno, il 68% del totale, quando ho detto. A fare la differenza sono i fondi UE, bond fino a 3 miliardi in Lombardia. E beh, questa cosa della pioggia di denari al sud, vedrai che, siccome il sud, come è noto, è stato meno colpito dalla crisi del Covid del nord, questo sarà un elemento che farà discutere. Poi c'è mi ha incuriosito anche un articolo di Paola Pierotti, gli hotel post virus puntano su privacy e personalizzazione, perché gli alberghi, stiamo alla vigilia della stagione estiva, si stanno riorganizzando, certo. L'unicità dell'esperienza, la cura degli spazi comuni, dei servizi digitali caratterizzano i progetti delle strutture e si preparano gli hotel ad accogliere il nuovo pubblico post coronavirus. E sempre a fianco, casa.it è il record di ricerche per le ville al mare, cioè tutte ville, anche le case al mare, avere una casa al mare, sì, soprattutto nella propria regione, è un fatto di tranquillità, sì, perché e la villa ti consente un distanziamento sociale più efficace rispetto all'appartamento di 50 metri quadri, no? Che normalmente magari si poteva affittare quando si andava al mare, insomma la possibilità di avere una villa cambia visto che ci troviamo su questo tema, c'è una ribellione, ne parla La Stampa, un articolo, una ribellione di Davide Lessi dell'Alto Adige. L'Alto Adige si ribella, dice: ma noi dobbiamo fare come l'Austria, noi riapriamo tutto, Roma ci lascia decidere. Oggi arriva il ministro Boccia, lì è una situazione molto molto particolare, perché l'Alto Adige è una regione che da sempre si comporta in modo diverso dal resto d'Italia e quindi chiede anche regole diverse. Però visto che siamo in tema di economia, se me lo permetti. Sì, da segnalare, permettimi Paolo, no, in questo racconto di Davide Lessi, che è un ottimo racconto, si segnala anche, no, questa scritta apparsa durante la notte con lettere incendiate, letteralmente incendiate su una montagna con scritto Los von Rom, via da Roma, insomma, l'idea, no, di un separatismo che torna a affacciarsi. Ai tempi degli anni 60, ricordiamolo, lì ci fu anche un'ondata di terrorismo contro Roma, insomma fu una stagione abbastanza infuocata. No, ma ti dicevo, visto che ci troviamo in tema economico, oggi il Corriere della Sera pubblica due belle interviste, una al candidato designato Bonomi alla guida della Confindustria, che è molto dura, nel senso che nella politica oggi c'è una specie di clima da volemos e bene. Invece Bonomi dice: abbiamo reddito di emergenza, reddito di cittadinanza, cassa ordinaria, straordinaria, in deroga, Naspi, discoli, potrei continuare, la risposta del governo alla crisi si esaurisce in una distribuzione di denaro a pioggia, denaro che non avevamo, si badi bene, si tratta di soldi presi a prestito, possiamo andare avanti così un mese, due, tre, ma quando i soldi saranno finiti, senza nel frattempo aver fatto un solo investimento nella ripresa del sistema produttivo, allora la situazione sarà drammatica. Sì. Ricordiamoci di questo, perché sono parole che torneranno ad attualità. Sì. Tra qualche mese. Sì. Molto dure, Paolo, anche sul decreto, sull'ultimo decreto, quello da 25 miliardi, ci sono perplesso, non c'è niente sull'industria, prevale la logica del dividendo elettorale. E poi c'è la richiesta, appunto, che si sblocchino le opere pubbliche finanziate e poi il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende, altro fronte importante, insomma. Corriere, ecco, che... Quella pagina 15, ti dicevo, ce ne sono due, perché a pagina 17 oggi Corriere giunge in aiuto al Sole 24 Ore perché c'è un'intervista a Marco Lavazza, che è titolare dell'azienda omonima, uno dei titolari, ma presidente dell'Unione Italiana Food, che dice: guardate, la filiera non si è mai fermata, e la nota della mancata riapertura di bar e ristoranti è una nota dolente, ma c'è una sensazione diffusa secondo cui il reparto alimentare non sia stato colpito dalla crisi e anzi ci abbia guadagnato. Sì. Non è così. 6 imprese su 10 denunciano un calo di produzione e fatturato, e nonostante la crescita dei consumi alimentari domestici, a marzo anche aziende che hanno visto crescere il fatturato e produzione hanno però dovuto sopportare gli aumenti dei costi delle materie prime e della logistica, che inciderà negativamente sui bilanci. Dall'altra parte troviamo tutte quelle aziende che lavorano soprattutto sul canale fuori casa e che hanno visto un calo netto delle vendite. Cioè, non è che perché si ha l'impressione che coloro che hanno lavorato nell'alimentare abbiano guadagnato, perché i supermercati erano pieni, sia pure con le distanze di sicurezza, ma non è così. Insomma, c'è un problema denunciato dal nord, però compensato da quella pioggia di miliardi al sud, che speriamo che faccia bene. Poco fa. Allora, ti vorrei portare su un minimo di politica, però lo facciamo dopo il traffico. Mattino. Ed eccoci, una politica complessivamente, Paolo, abbastanza tranquilla, e però nella quale si vede qualche elemento interessante. Ne parlavamo prima di trovarci qua nella rassegna, c'è questa intervista di Alessandra Ghisleri, no? La quale ci dice: guardate che non è la popolarità di Conte. Sì, ho fatto un salto sulla sedia nel leggere l'intervista di Alessandra Ghisleri alla Verità, l'ha intervistata Alessandro Rico, perché tutti i giornali ci raccontavano che Conte, la popolarità, le stelle, ormai tutti lo dicono al 70%. Lei dice: guarda, non è vero niente, gli italiani si sentono feriti da Conte. Secondo quello che rilevo io, il Premier non ha mantenuto, dicono i suoi ascoltati, il Premier non ha mantenuto le aspettative che aveva creato, rischia il contraccolpo. Da lui e dagli esperti è venuta una comunicazione troppo confusa, e a proposito di questo segnalo a tutti i lettori un'intervista di Sergio Rizzo, su Repubblica, sì. 100 giorni, 160 sì. decreti, anche nella lotta al virus, a vincere la sì. burocrazia. Ecco, sì. questo un po'. Ne abbiamo dato conto poco fa, insomma, sempre sì. un dato impressionante. Vai. E la gente inizia a pensare che l'Europa non serva. In compenso, in soccorso di Conte, giungono due giornali che si sono molto affratellati in questa crisi, che sono Il Foglio e Il Fatto. Oggi sì. ex di Giuliano Ferrara, oggi di Cerasa, Il Fatto di Marco Travaglio, che pubblicano così molti omaggi a Conte, anche se oggi sul Fatto c'è un'intervista a Gianfranco Pasquino che dice: ma è assurdo, chi vuole abbattere questo governo, sì. non sa di cosa parla. Però Giuliano Ferrara, che pure definisce armata Brancaleone quella che sfida l'avvocato Conte, però se la ride un po' tra i baffi sull'appello degli intellettuali contro l'agguate al governo, perché dice che ieri c'è stato un appello pubblicato dal Manifesto di tanti intellettuali dicendo aiuto, ci sono vattini agguati al governo, e dice questo appello risulta un po' comico. Sì. Questo più o meno per la politica, perché per il resto ne hai già parlato. Sì, cioè... c'è il pranzo proibito, l'uomo di Zingaretti che ha fatto una grigliata, la polizia è arrivata. Sì. Lei non sa chi sono io, lei eccetera. Non sa chi sono io, sono io che scrivo, si chiama Albino Ruberti, sì, le normative, insieme a un consigliere della ministra De Micheli, a una deputatessa regionale del PD, insomma si sono fatti, dice, noi poi abbiamo faticato talmente tanto durante questi 60 giorni, in più parlavamo, sì, di politica, dice, ma sì, voi cantavate, no parlavamo di politica, note di colore decisamente, mentre invece non sono note di colore queste, Paolo. Se parte la cosiddetta fase 2 in Italia, mi pare che negli Stati Uniti sia ampiamente avviata la fase 2 dello scontro con la Cina, che si approfondisce ulteriormente con le accuse di Donald Trump al laboratorio di Wuhan, che avrebbe fatto sfuggire il virus, sostiene il presidente americano e dice di averne le prove. E si approfondisce ulteriormente con questa intervista sulla stampa di Paolo Mastrolilli al segretario alla difesa americano, il quale dice... attenzione, perché Cina e Russia, e questo è il titolo, usano il virus per, sì, condizionare l'Italia. Questa è l'intervista del giorno per quello che riguarda la politica internazionale. Mike Esper, che è il segretario della difesa USA, dice l'assistenza sanitaria dovrebbe essere sempre senza condizioni, e avverte Roma e gli alleati della NATO con la tecnologia di Huawei a rischio la sicurezza e i nostri rapporti bilaterali. Gli avversari sfruttano la crisi per seminare divisioni nell'alleanza in Europa, e giustamente tu li hai messi insieme, quella, la dichiarazione di Mike Pompeo, che ha detto ormai noi abbiamo quasi i documenti, la sicurezza, che il virus ce l'ha mandato la Cina ed viene fuori da quel laboratorio di Wuhan, anche se io e te, ti ricordi, ne abbiamo già parlato, non si capisce bene se è stato fatto in laboratorio o si è prodotto casualmente. In realtà la tesi che si sta sostenendo adesso è che sia sfuggito appunto da quel laboratorio di Wuhan. Ma questo è quello che sostengono gli americani. Non si capisce nemmeno, perché un laboratorio può sfuggire, ma quello che non si capisce è nato naturalmente, come hanno sostenuto fin qui tutti i virologi, cioè da uno che si è mangiato un pipistrello che dentro c'era il virus, adesso la dico in modo un po' brutale, oppure è nato da un prodotto di laboratorio, perché fino ad oggi i virologi sostenevano che non poteva essere nato da ed è quello che sostengono a tutt'oggi sia i virologi che i genetisti. Dicono, insomma, questo non è un prodotto artificiale, è un prodotto della natura, per così dire. Dobbiamo pensare che dei chimici del laboratorio di Wuhan, all'ora di pranzo, si sono messi a mangiare pipistrelli e uno di loro l'abbia oppure stavano studiando il virus e l'hanno portato fuori per errore. Questo è quello che sostiene l'amministrazione americana, insomma, stando appunto poi a quella, alle cronache che leggiamo sui giornali. Comunque ricordatevi, leggete se volete sulla stampa, su una pagina 2, nella stessa pagina, sia la dichiarazione di Pompeo sia questa importantissima intervista a Mark Esper. Però non è solo questo, sul piano internazionale ci sono di cose oggi. Sì, parecchie, e tra l'altro non tutte hanno a che fare con il coronavirus. Innanzitutto proprio la stampa, a pagina 16, Paolo, ci porta ad una, quella che è oggettivamente una buona notizia, insomma, no? Questa sarebbe oggi la notizia del giorno. Lo racconta Lorenzo. Non ci fosse il coronavirus, la vittoria di Tamadore delle donne in Sudan, Khartoum vieta le mutilazioni genitali. È una campagna che va avanti da 30 anni, fortissima. 3 anni di carcere per gli autori e fiancheggiatori della circoncisione femminile. Nel paese 9 bambine su 10 venivano infibulate, 9 su 10, ripeto. La pratica costava 100 euro e... da oggi dovrebbe essere che le donne in Sudan non lo possono più fare. È un grande salto nella lotta anche per i diritti delle donne, sì, insomma, un salto nella lotta del costume. sempre della stampa, allora sì. Ti segnalo che nella pagina da dire, permettimi Paolo, solo una piccola integrazione, sì. Da dire che questa è anche la storia di una donna, la storia di Tamador Khalid, una delle tante donne sudanesi vittime di mutilazioni genitali femminili, aveva 7 anni quando avvenne, ha trasformato questa ferita in uno spirito di rivalsa, ha lottato entrando a far parte dell'UNICEF, scrive appunto la stampa, affinché quanto successo a lei e alle sue sorelle non si ripetesse nei confronti di altre bambine, e oggi appunto celebra una vittoria inattesa ma sperata, e quindi anche la vittoria di Tamador. Si vedo, a proposito di questo articolo sul Tamador, c'è uno schema di quali sono i paesi che praticano la mutilazione e infibulazione in Africa, sono soprattutto il Mali, la Somalia e il Sudan. In Sudan 9 donne su 10 tra i 14 e i 49 anni vengono mutilate, cioè non è solo come la circoncisione ebraica dei bambini che viene fatta ai bambini appena nati, ma anche donne fino a 49 anni che vengono sottoposte a questa pratica, sì, questa pratica crudele. Sì. Ti dicevo, sempre sulla stampa, pagina 15, la pagina precedente, in carcere dal 2018 in Egitto muore il regista del video anti al-Sisi. Era un ragazzo di 24 anni, si chiamava Shadi Abash, ed era nella stessa prigione di Zaki, ricorderanno tutti gli ascoltatori, quel sì. Testimone importantissimo del processo a Regeni. Ebbene, è morto, non è morto, credo, di... coronavirus, anzi tenderei a escludere sì. Che sia morto di coronavirus, però questo è una notizia, anche questa sarebbe stata molto importante sui giornali, ma il coronavirus, come diciamo, domina tutto. Allora abbiamo ancora un minuto e mezzo, ti voglio portare, Paolo, su questa polemicona tra il PM Di Matteo e il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Di Matteo che racconta da Giletti che Bonafede l'ha chiamato, gli ha offerto la direzione del DAP, la direzione delle carceri, avrebbero fatto pressione e il ministro Bonafede si sarebbe piegato a queste pressioni. Tenderei a escludere questa cosa, sì. Perché quello nominato a posto di Di Matteo è un procuratore ugualmente impegnato nella lotta alla mafia, però insomma, è una parola importantissima quella di Di Matteo, e hai ragione tu, questa sarà una delle notizie dei prossimi giorni, sì, è iniziata soltanto ieri sera all'Arena di Giletti. Ma prima di chiudere, fammi festeggiare la nascita di un nuovo quotidiano, perché De Benedetti ha annunciato che fa un quotidiano, non so, De Benedetti si è andato dalla proprietà di Repubblica, Repubblica adesso è nelle mani di Exordi, John Elkann, e dice che non è abbastanza di sinistra, ne fa, si chiama Il Domani, ne parla ampiamente il giornale, dice il giornale che è probabile che lo dirigerà Lucia Annunziata. Io non ci credo che lo dirigerà Lucia Annunziata, perché è una giornalista così che ormai sta facendo altre cose, magari collaborerà Lucia Annunziata. Se dovessi fare una scommessa, secondo me questo giornale di sinistra, sì, di impronta economica, lo dirigerà un tipo come Stefano Feltri, il condirettore, l'ex vice direttore del Fatto. La scommessa di Paolo Mieli, vedremo. Sicuramente sei anche informato, anche perché deve avere un'impronta più economica, sì. Giornale di Benedetti, Feltri è anche un assistente di Zingales, insomma, dovendo scommettere, scommetto sì. Grazie Paolo Mieli, anche per oggi ci ritroviamo mercoledì naturalmente, GR24 a tra un attimo, poi ci ritroveremo con la sottosegretaria della salute Sandra Zampa, ovviamente con Maria Latella, la sottosegretaria della salute Sandra Zampa, la ministra Catalfo, a tra poco.